You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Indovina chi viene a cena, versione serale, cambia l'orario, ma non lo spirito della nostra trasmissione che ha sempre come ospite uno o più italiani di origine straniera. Indovinate chi è venuto stasera a Radio 24? Abbiamo il piacere di avere uno scrittore russo naturalizzato italiano, Nikolaj Lenin, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi. Chiaramente molti di voi all'ascolto conosceranno Educazione Siberiana, un libro pubblicato qualche anno fa di Einaudi, che è stato un vero e proprio caso letterario, ma anche i successivi libri di Nikolaj Lenin che ci portano in un paese lontano. Nikolaj, lei da quanti anni è in Italia? In realtà non sono uno scrittore russo, io sono scrittore italiano, perché la mia prima esperienza della scrittura è stata fatta in Italia, in lingua italiana, per cui per il rispetto nei confronti dei russi preferirei essere definito come scrittore italiano, perché poi si offendono perché io in lingua russa non avevo scritto niente. È vero, lo strumento è la lingua. Cambiano i nostri mondi di come viene integrata sempre di più, come vengono integrate le persone all'interno di diverse società. È vero, ha detto bene in effetti, perché lei, come altri scrittori e scrittrici che spesso abbiamo sentito di origini magari straniere, lo strumento che usate è la lingua italiana ed è affascinante, interessantissimo anche come viene modificato, come viene utilizzata la nostra lingua nelle mani proprio di uno scrittore che ha un'origine altrove, ma giustamente è uno scrittore italiano. Noi partiamo sempre da un piatto di solito nella nostra trasmissione. È uno spunto che ci viene da questo film degli anni 60 e anche perché pensiamo che l'integrazione e l'identità passi anche attraverso il cibo. E cosa si cucinava a casa sua quando viveva in Russia? E ci racconti anche in quale zona della Russia, che poi ha ispirato molta parte della sua opera. Sì, io sono nato in Transnistria, che è la parte estrema di sud-ovest del vecchio impero sovietico, quindi era anche distaccato dalla Russia, era tra Moldavia e Ucraina, effettivamente farebbe parte della Moldavia, però sono nato in una famiglia di origini siberiane e spesso viaggiavo perché avevamo tantissimi parenti in Siberia, nella zona vicino a Kazakistan, alcuni abitavano in Kazakistan perché Kazakistan confina con sud della Siberia. La ritualità di mangiare era molto importante, quindi quello che in Italia io oggi nella mia famiglia, che è a metà italiana, io sono fidanzato con una donna italiana, ho una figlia con una donna italiana, quindi sono molto inserito nella società, cosa che mi piace, la ritualità di cibo, di cena, di stare insieme, di parlare. Da noi era sempre così. Anche noi ci riunivamo a tavola, si parlava, si raccontavano le cose, una grande famiglia. Si mangiava di solito il piatto preferito da tutti, era anche il piatto, definito più sano per via di particolarità del metabolismo russo, che ci aiutava a affrontare periodi freddi, era la zuppa rossa detta borscht, e poi c'era un altro piatto molto buono che ha diverse varietà, che si chiama plov, che è una specie di risotto ma molto più secco, non liquido come risotto che conosciamo qua in Italia, però viene preparato in diversi modi, può essere anche dolce, lo fanno con frutta secca, e si mangia anche con le mani questo risotto in alcune repubbliche caucasiche oppure asiatiche verso l'Asia centrale, quindi parliamo di Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan, questo risotto si mangia con le mani ed è molto buono. Quindi noi di solito ci riunivamo a cena, da noi si cenava presto, alle 6 di sera, perché verso le 8 già la cena era benché finita e alle 9 tutti andavano a dormire. Alle 7 di mattina alcune fabbriche cominciavano a lavorare, quindi persone andavano a lavorare alle 5 e mezza. La scuola cominciava alle 7 e mezzo, quindi noi normalmente alle 6 ci svegliavamo, e quindi per questo andavamo a dormire presto. Poi nel mio libro io racconto le cose, ma il mio libro meglio non prendere come l'esempio l'esempio perfetto di descrizione della realtà di quei tempi, perché è un romanzo, è molto costruito sulla fusione dei tempi, delle culture, di epoche, però in mezzo ci sono tantissimi piccoli momenti, per chi è attento può capire molte cose interessanti. Ovviamente sono un po' diventato italiano e oggi se vado da qualche parte per lavoro, per qualche festival letterario, vado via dall'Italia, io dopo 3 giorni se non mangio un piatto di pasta fatto bene io sclero. Quindi italiano ormai al 100%. Peggio anche addirittura di alcuni italiani. Senta, io ho letto in una sua intervista che diceva: sono arrivato come extracomunitario come tanti altri, e poi si esprimeva nei confronti dei centri in cui in Sicilia vengono più che ospitati, stipati molti ragazzi africani, e diceva: ci riteniamo democratici, poi creiamo questi campi di concentramento. Che opinione ha della presenza degli stranieri in Italia, di come noi recepiamo questa presenza? Ma io credo che in generale la politica dell'Italia, io non parlo di persone semplici, perché persone semplici italiani sono persone molto accoglienti, molto aperti, sono persone a cui io veramente voglio bene, il mio popolo, perché tra i popoli più aperti, con la mentalità più aperta che c'è. Io sono venuto in Italia da extracomunitario e io sono oggi quello che sono, cioè uno scrittore famoso, realizzato, ho 33 anni, ho lasciato dietro le spalle una vita terribile, piena di difficoltà, e sono diventato quello che sono grazie agli italiani che mi hanno aiutato, grazie alle persone buone e oneste che ho incontrato sul mio cammino e che mi hanno aiutato a realizzare le mie potenzialità e i miei sogni. Se io fossi stato in un paese con la gente che odia straniero, io non potevo vivere qua, non potevo realizzarmi, non potevo essere quello che sono. E chi ci dice a noi, agli italiani, che noi siamo chiusi, è un perfido bastardo bugiardo, scusatemi l'espressione, però lo fanno alcuni politici perché devono giocare sulle note di estremismi, perché altrimenti non riescono a raccogliere i voti. Quello che noi abbiamo, la piaga in Italia, è la politica e il nostro governo. Sono persone estremamente incapaci di gestire qualsiasi forma, qualsiasi situazione, qualsiasi forma politica, e ovviamente adesso quando noi parliamo di questi povere persone, questi umani che arrivano dall'altra parte del mondo perché ci credono nei nostri valori e perché aspettano da noi un'accoglienza, un'integrazione, un primo passo, poi vengono sistemati in questi campi di concentramento e vengono trattati come fossero tutti terroristi con dei pregiudizi enormi, che sottolineo non sono trattati così da cittadini italiani, sono trattati da sistema che nasce da malgestione politica e sociale di questo paese, quindi la Boldrini e tutta la compagnia bella che parlano tanto ma in realtà non fanno niente di utile. E allora quello che noi dobbiamo fare, quello che a noi ci manca, è una classe politica decente, onesta. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito dopo l'intervallo a parlare con lo scrittore italiano di origine russa Nikolaj Lilin. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Torniamo in studio a parlare con Nikolaj Lilin, lo scrittore italiano di origini russe che ci ha fatto conoscere appunto l'educazione siberiana. E torniamo a parlare con lui, in sottofondo la sentite la musica del film da cui traiamo ispirazione, Indovina chi viene a cena, e questa volta una versione nuova, ancora una volta, di questa celebre colonna sonora. Ma Nikolaj Lilin, quando è arrivato in Italia, com'è stato il salto da persona straniera in un territorio che non conosceva a grande scrittore, tra l'altro in una lingua non sua, l'italiano? Come ha fatto a fare questo salto? In primi anni ho cercato di imparare bene l'italiano, quindi mi sono dato all'approfondimento culturale. Frequentavo diverse associazioni culturali. E questo lo voglio dire anche a tanti stranieri che arrivano qua, a tanti extracomunitari che come me sono arrivati in Italia. Non bisogna mai bloccarsi nella propria cultura, cioè non bisogna mai portare in un paese straniero la propria cultura e rimanere fissato su quella. Bisogna aprirsi anche alla cultura del paese che ti ospita, altrimenti non c'è un'integrazione equilibrata. Cosa faceva nei primi anni che era qui per mantenersi? Ma io lavoravo, io ho trovato subito un lavoro, ero specialista nell'ambiente in cui lavoravo prima, ho trovato il lavoro e poi tutto il mio tempo libero dedicavo all'integrazione, cercavo di imparare la lingua, ascoltavo la musica, poesie. E come ha fatto a proporre questo romanzo? Ma io collaboravo con questa associazione culturale su un progetto teatrale, ho scritto alcune cose e da lì uno dei drammaturghi mi ha detto: guarda, secondo me devi provare a scrivere un po' racconti un po' più ampi perché a me piace come tu scrivi. E lui, senza dirmi niente, le ha fatto vedere all'editore e l'editore mi ha chiamato, editore di Einaudi, da Leo Gero. Io sono andato nella sede di Einaudi a Torino e sono uscito con un contratto. Quindi è nato questo romanzo che è diventato un caso editoriale, quindi l'editor ci ha visto bene, che racconta di questa comunità di criminali deportata da Stalin al confine con l'attuale Moldavia, no? In questa terra di nessuno, gli Yurka siberiani, che si definiscono criminali onesti. Ma sentiamo proprio un pezzetto del film di Gabriele Salvatores che è stato tratto quest'anno proprio da questo romanzo. Oh Santa Madre del Santissimo Dio, benedici le nostre armi, indirizza i nostri proiettili e consacra noi, così che la nostra ira possa diventare la tua. Kolima. La picca è come la croce, lei ci accompagna per l'intera nostra vita. Ma ricordati, dobbiamo avere rispetto per tutte le creature viventi. eccetto che la polizia, i banchieri, gli usurai, rubare a queste persone è permesso. Questo era il trailer del film Educazione Siberiana, tratto dal romanzo che ha scritto Nikolaj Lilin. È stato un grande successo anche al cinema, lei ha collaborato, no, alla stesura della sceneggiatura. Quando l'ha visto, che cosa ha pensato? Beh, è un bellissimo film, ho cercato di dare a Gabriele e a sceneggiatori che sono stati Rulli e Petraglia, ho cercato di dargli più possibile di materiale interno, quello che io porto dentro di me, con i ricordi, le mie riflessioni. Sono molto onorato che questa interpretazione è stata fatta da lui e che poi alla fine ha avuto anche grandissimo successo a livello cinematografico, sia in Italia che negli altri paesi. Se voi pensate, è uno dei pochi film italiani che è venduto in America, negli Stati Uniti, quindi abbiamo fatto un bel lavoro. Ci sono dei valori che vengono espressi dal protagonista in questo trailer che ci sono nel libro, degli Urca siberiani, abbastanza lontani dalle categorie di bene e male che noi percepiamo di solito. Ad esempio, i nemici viene elencato la polizia, i banchieri, gli usurai, no? Quindi è un mondo molto particolare, molto moderno, anche perché il nemico banchiere ultimamente va molto di moda, diciamo. Ma in realtà questa è anche stata un po' la mia riflessione all'attualità, perché io nel mio libro non ho fatto una cieca interpretazione di quello che era il mondo dei miei vecchi. Io sono uno scrittore, io scrivo la letteratura e per me la letteratura deve essere comunque una cosa contemporanea. Quindi nel mio libro ho cercato di raccontare attraverso i miei ricordi personali, usando tantissime soggetti presi dalla mia esperienza personale, e li ho mischiati con diversi modi di espressione letteraria. Quindi il mio libro rappresenta un po' la Russia che io vorrei, ma non solo la Russia, il mondo che io vorrei che il mondo fosse così, fatto di persone oneste. Poi il fatto, l'ultima frase, quello che è piaciuto molto a Gabriele, è quello che era la frase di mio nonno, che mio nonno spesso mi diceva che chi vuole possedere tutto è un pazzo, perché un uomo non può possedere più di quanto il suo cuore possa amare. Cioè, io credo che se oggi nella nostra società, nel nostro mondo globale che è sempre in crescita e rimane sempre meno posto, e noi dobbiamo imparare una nuova cultura di convivenza, di integrazione, di tolleranza, queste parole potranno essere parole chiave per entrare in una nuova era evolutiva. Quindi il mio messaggio non era soltanto, il mio intento non era soltanto di raccontare una società che esisteva una volta, che tra l'altro dal punto di vista storico il mio libro è costruito con molti particolari che possono essere anche, come dire, trattati come non corretti, ad esempio il fatto di deportazione da Stalin dei criminali, ma stessa esistenza di questo popolo, etnia urca. Che quindi sta dicendo che è fiction? Io descrivo come popolo, no, fiction no, perché fiction è quando una persona inventa totalmente tutto. Io mi baso sull'esistenza di una serie di situazioni, come ad esempio il mio quartiere, le famiglie di queste che appartenevano a questo gruppo siberiano, si definivano così, come gli urca, però io nel mio libro rappresento come un popolo, quindi do una grandezza enorme. Quindi è romanzato, diciamo, è amplificato, romanzato. È un romanzo, cioè il mio libro è un romanzo, non è assolutamente non può essere letto come un'autobiografia, ma chiunque abbia un minimo cultura letteraria già dalle prime pagine capisce che questo è un romanzo. Questo lo dice anche perché ci sono state, inutile non dirlo, delle polemiche sulla veridicità o meno del romanzo, che lei però rivendica come tale, come un romanzo. Sì, perché di solito polemiche nascono per motivi diversi, sono cose molto strane, perché quando infatti io adesso lo so questa cosa perché sono nel mondo di letteratura, nel mondo dell'arte da un po' di tempo, ma all'inizio per me tutta questa cosa sembrava strano, questi accanimenti con una persona che ha scritto un libro. Dicevamo, per tornare invece ai contenuti del libro, che vengono citati fra i nemici i banchieri, no? Un obiettivo di attacco molto moderno, e anche penso alle lotte antiglobalizzazione o comunque che ci sono stati in questi anni dei giovani, anche Occupy, i vari Occupy in giro per il mondo, no? Di prendere di mira il capitalismo, gli banchieri come dei nemici da abbattere. Quindi c'era nel suo libro già una visione di quello che erano queste problematiche tremendamente attuali. Sì, io stando in Italia, conoscendo bene Italia, io anche attraverso questa storia di questa etnia, presunta etnia siberiana, che poi erano tutti mm-hmm. familiari, diciamo, attraverso crescita di mio personaggio, io ho raccontato anche alcuni sentimenti e alcune riflessioni che sono nati dentro di me dopo i primi anni della vita in Italia, e quindi c'è anche molta Italia nei miei libri, anzi se non ci fosse Italia io non avrei mai scritto Educazione Siberiana e non mi avrei mai espresso in questo modo. Che cosa c'è dell'Italia in Educazione Siberiana? Cioè gli Urca sono quasi più italiani che russi? Secondo me sì, perché comunque il metodo di oppressione è uguale dappertutto. Che sguardo ha dall'Italia sulla Russia di oggi? Ma sguardo critico, anche più o meno lo stesso che ho sulla mia Italia, perché ha vinto, soprattutto nell'ultimo decennio, ha vinto l'oligarchia, ha vinto la frenata corsa per il denaro, per il dominio, e quindi le cose importanti purtroppo vengono lasciate da parte, e questo si vede da come il mondo culturale reagisce alle ascese dei poteri politici o alle leggi, terribili leggi omofobe che sono ad esempio legge contro gli omosessuali che è uscita quest'anno, per me è stata proprio una cosa terribile, negativa, io non pensavo mai arrivare io a 30 anni a assistere ad una cosa del genere. A cosa sta lavorando ora prima di salutarla? Sto lavorando sul mio quinto libro che lo sto finendo, spero di finirlo presto. Sarà ambientato sempre in Caucaso, quindi è un romanzo, è primo romanzo in terza persona, quindi non ci sarà più un protagonista ego. È un romanzo che racconterà la guerra attraverso le vicende umane, attraverso le storie umane, e racconterà dell'importanza di amicizia vera, amicizia che va oltre le differenze culturali e religiose. Poche donne nei suoi romanzi. Guardi, in questo nuovo romanzo le voglio sorprendere, ci sarà tra protagoniste ci sarà una donna che sarà anche un po' un tributo mio personale a una grande persona che io reputo una delle più grandi giornaliste e persone libere russe, che purtroppo è stata uccisa, è Anna Politkovskaya, quindi apparirà nel mio libro un suo personaggio che farà un po' da guida ai miei due ragazzi. Borscht o zuppa alla russa? Ingredienti: 4 barbabietole, l'acqua di cottura delle barbabietole, una cipolla gialla grande tagliata a dadini, 3 spicchi d'aglio tritati, 3 pomodori grandi, 2 litri di brodo di carne, 300 g di carne, agnello, maiale o manzo tagliata a dadini, una tazza di cavolo marinato tagliato grossolanamente, 3 carote, una tazza di rassol, sale, pepe quanto basta, aneto, prezzemolo, yogurt o panna acida. Mettere le barbabietole pelate in una pentola larga piena d'acqua salata fredda e portare a ebollizione. Lasciate cuocere finché non saranno tenere. Fatele sgocciolare conservando l'acqua di cottura. Sminuzzate le barbabietole. In una pentola fate soffriggere le cipolle e l'aglio tritato finché non diventano dorati. Aggiungete la carne tagliata a dadini e fatela rosolare. Aggiungete le carote e fatele saltare per 10 minuti. Aggiungete il brodo, l'acqua di cottura delle barbabietole, le barbabietole, i pomodori e il cavolo. Portatelo pian piano ad ebollizione. Lasciatele cuocere a fuoco lento finché le carote non si ammorbidiscono. Aggiungete il rassol, aneto e prezzemolo. Quando la zuppa è cotta, servite in grandi piatti fondi con panna o yogurt, aneto e erba cipollina tritata. Grazie, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Buona serata Nicolai Lilin. Grazie a voi, buona serata a tutti. Prima di chiudere e darvi appuntamento a sabato prossimo, io vi segnalo un libro molto bello che è uscito da un paio di giorni in libreria, Storie di migranti e altri esclusi, La vita ti sia lieve, di Alessandra Ballerini, in libreria del 21 novembre, Melampo Editore. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo sabato prossimo e ricordatevi che a tavola, come nella vita, i gusti cambiano. You've got to give a little. That's the glory of love.